Proteste, fermi e lacrimogeni. Più che i valori di Olimpia, a Parigi il passaggio della torcia olimpica ha lasciato dietro di sé una giornata all'insegna del caos. Così, malgrado le ingenti misure di sicurezza, a dominare la cronaca ci hanno pensato numeri e fatti da percorso di guerra. Subito dopo la partenza dalla Tour Eiffel, la fiaccola è stata spenta ufficialmente per motivi tecnici e messa a riparo su un autobus. Poi, per evitare il peggio, quest'operazione è stata ripetuta per ben 5 volte lungo il percorso. Un percorso che, vista la pressione crescente dei dimostranti pro-Tibet, è stato accorciato, evitando con cura la sosta davanti al comune. Robert Ménard è il segretario generale di Reporters sans frontières, l'organizzazione che ha gestito la regia della protesta. È un successo a patto che serva a far progredire la causa dei diritti dell'uomo in Cina e a patto che mobiliti i capi di governo e di Stato, in modo particolare il nostro. Igor Fiatti, GR24 Il Sole 24 Ore, Parigi.